10. Dici? Siamo noi, ma come eravamo prima? Ma non dico. Hola. Cicù canale 10. Allora, Cicù canale 10. Chi è avanti? Chi è che fischia? Cicù 10. Serve qualcosina, la morbidente per la lavatrice, così. E così prendo, faccio un giretto anche, pillo qualche vincenzo al bar, così. Però la giornata è strana, non mi sembra né carne né pesce, cioè c'è il sole da una parte ma dall'altra sembra fortemente velato il cielo. Non vorrei che fosse come l'altro giorno, che faceva un po' di sole e poi rischiava di piovere, un po' di sole e poi sembrava sul punto di piovere. Scusa Marco, pure ti. E io fai, fai pure. Ciao. Thank you. Grazie.